Eccoci qua, ci siamo per una direttissima speciale. Con questo super eco per tutta la piazza, grazie, Wow. grazie a Pontassieve, grazie a Mercato Contadino che ci avete invitato oggi a passare il pomeriggio con voi. Pontassieve in transizione, ricordiamo, viene sempre pubblicizzato anche su Radio Contado il giovedì. Dove vai a fare la spesa? A In Pontassieve! piazza dei martiri, 14, dei 14 martiri. Qua proprio accanto alla Sieve, una Esatto. postazione bellissima, una piazzetta molto carina, piccina, saranno 11-12 banchi contadini qui presenti. Nessuno ce l'aveva mai descritta, ma c'è proprio la terrazzina sulla Sieve, cioè sulla Sieve. ci sono i bambini che saltellano mezzi. Attenzione, abbiamo subito No, una richiesta di intervento. L'unica venga. piazza rimasta? Ah, non ci sono più piazze, appunto. Ci sono parcheggi. Piazze, non ci sono più. L'unica piazza salvata dall'essere un parcheggio. Peccato. Salvata da poco e non definitivamente, come vedete da questi spazi, però. Infatti, qualche macchina quando siamo arrivati c'era. Quindi nella normalità un po' di parcheggio c'è, Con però Mercato lo Contadino, spazio. per fortuna, questo c'è. Meno Ciao. male, infatti, meno male che viene utilizzato. Siamo in Radio Wombat Firenze, in diretta Non streaming. avviene. No. Qui bisogna fare una petizione per riaprire un po' di piazza Pontassieve. La piazza era E nulla, niente, nulla. non sono ricettivi, non sono ricettivi. Allora speriamo almeno che si aprano sempre più mercati contadini, allora, al posto delle macchine, ci sono banchi di Perché per un cibi buoni, mercato, sani, esatto. agroecologici. Mercato contadino è stato fatto in piazza Boetani. Sì, ce lo E dicevano. lì dovevano levare le macchine. Era Un casino, un disastro. la ribellione. Insomma, come capite, Wombat è sempre presente nelle situazioni critiche dell'Inter Fiorentino. Pronti ad Poi accogliere insomma anche i reclami delle persone, insomma. io e la dama siamo qui piazzati in mezzo alla piazza su una panchina perché non abbiamo un tavolo, neanche un tavolino. Siamo in un mood molto agile. Sì, ma molto anche Agile. piazza, Molto snello, molto brava, snello brava. direi. Stanno intanto allestendo gli organizzatori e le organizzatrici le sedie perché tra Perché poco ci sarà diciamocelo, l'assemblea sulla garanzia oggi non partecipata. è un mercato normale. Grandi, grandi eventi accompagneranno, oltre alla presenza di Radio Wombat, questo bellissimo mercato sulla terrazza. Insomma, tante le iniziative ci sorridono dai banchi, come a chiederci: no, per favore, non ci intervistate, ma tra poco vi faremo sentire un po' dei protagonisti di questa piazza, tra il Comitato per la difesa del crinale Mugellano, Val di Sieve in transizione, tanti, appunto 11 banchi, tra cui miele, ceste, verdure, erboristeria, vini, aceti, E c'è anche il vestiti ricuciti, ricucio e ricucio, riuso, che è molto molto bellino. interessante. Ci spiegavano prima che ricuciono o riusano vestiti o capi d'abbigliamento che loro danno. Un progetto di Londa. E quindi siamo qua con un po' di calore, una birretta e i bambini continuano a correre. E soprattutto hanno una cosa che è bellissima, ma che non possono avvicinarsi a noi per ovvi motivi di regia, ma è Speriamo che si questa stanno cosa spruzzando. spruzzino, che sarebbe bellissimo averlo addosso in questo momento, un po' di acqua fresca. Però Che dobbiamo bene. preservare la nostra regia Wombat e quindi non Esatto, quello che possiamo. non ho è la voglia di asciugare il mio computer. E quindi Wombat in diretta 17.02, fateci sapere ai numeri che conoscete se ci state ascoltando, se riuscite a sentirci, potete anche comunicarci come state, quello che volete sapere nella Attraverso pagina il pad. Wombat, il pad sul sito wombat.noblogs.org, c'è proprio una pagina che potete aprire dove scrivete e in diretta noi leggiamo quello che voi state scrivendo e possiamo rispondervi. Interagite con noi. E quindi partiamo con un po' di musica e ci assettiamo per questa oretta, oretta e mezzo, 2 ore, chi lo sa, Non lo fino so, alla prossima improvvisiamo oggi, trasmissione. con tante sorprese. Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole. Quello che non ho è di farla franca. Quello che non ho è quel che non mi manca. Quello che non ho sono le tue parole per guadagnarmi il cielo, per conquistarmi il sole. Quello che non ho è un orologio avanti per correre più in fretta e avervi più distanti. Quello che non ho è un treno arrugginito che mi riporti indietro da dove son partito. I denti d'oro. Quello che non ho è un pranzo di lavoro. Quello che non ho è questa prateria per correre più forte della malinconia. Quello che non ho sono le mani in pasta. Quello che non ho è un indirizzo in tasca. Quello che non ho sei tu dalla mia parte. Quello che non ho è di fregarti a carte. Quello che non ho. Mentre ci parlano delle interviste in salita con le pecore, qui da Piazza Pontassieve, come si pronuncia? Piazza 14 Martiri, immagino. Cominciamo un po' a conoscere le realtà che sono presenti qui al mercato e che anche loro operano nella difesa dei territori, in particolar modo nel crinale mugellano. Siamo qui infatti con il Comitato per la tutela del crinale mugellano. Ciao, grazie mille di essere qui da questo lato della piazza per poter essere in radio con noi. Ciao. Ciao, cosa state? Cioè, avete un banco bellissimo intanto, però insomma denso di significato, sì. e per cosa state combattendo? Allora, noi ci stiamo opponendo a un progetto che immagina di costruire su un crinale e precisamente sul sentiero 00 un impianto industriale eolico che prevede l'impianto di 8 pale eoliche che avrebbero delle dimensioni spaventose, si parla di 150 metri orientativamente, quindi qualcosa di paragonabile a un grattacielo di 50 piani, e con tutto quello che questo comporterebbe, quindi con tutte le infrastrutture per arrivare, le strade necessarie che andrebbero a intervenire su un paesaggio che al momento è incontaminato, è privo di intervento umano, quindi vorrebbe significare una devastazione di quello che è al momento una zona naturale di grande rilievo, allo scopo di ottenere un certo quantitativo di energia non controllabile, non accumulabile, andando a ledere quelle che sono le realtà che in questo momento insistono su questo territorio, quindi piccole aziende agricole di qualità, ci dice la produzione del marrone del Mugello, insomma ci sono piccole nicchie di prodotti di grande livello, piccoli agriturismi che da questo tipo di intervento verrebbero completamente devastati, quindi sarebbe un intervento che porterebbe dei guadagni enormi per chi ricostruisce e esclusivamente devastazione a chi sul territorio ci vive e lo vive e lo ha scelto proprio perché è un territorio incontaminato. Vi parlano di energie rinnovabili, ma in realtà poi per ottenerle devono devastare interi territori. E, scusa, non ti ho presentato il nome. Allora, io mi chiamo Marina e sono residente in una delle due frazioni interessate da questo progetto, che è la frazione di Corella del comune di Dicomano. Bene, e insieme a noi anche Luca. Luca, ciao Luca. Io abito in un comune vicino, però sono solidale, perché il crinale è un bene di tutti, non solo di chi ci abita, ma anche di chi ci va. Perché sono posti bellissimi, molto frequentati anche dai fiorentini che vanno a cercare i funghi, che vanno a prendere il fresco d'estate, sono posti bellissimi. Di che superfici stiamo parlando di possibile devastazione? Più o meno? Il crinale è una lunghezza più che altro, diciamo che ogni pala prevede uno spiazzo assolutamente diserbato con un interro di un plinto di cemento armato. Mi sembra che siano 600 tonnellate di cemento per farli stare fermi, perché questi pali, potete immaginare, per produrre 5 megawatt col vento vuol dire che offrono una resistenza molto forte, quindi devono essere molto radicate nel suolo. Questo chiaramente significa che devono andare a fondo, devono rovinare le falde, devono rovinare un territorio che è anche molto franoso, perché l'Appennino è fragile. Poi disboscamenti, strade di servizio, cose varie, insomma tanta roba. Immagino ci siano stati degli studi o sono stati, diciamo, insabbiati tutti gli studi geologici che sono stati fatti o sono stati i soliti studi fatti dalla stessa ditta che poi... Esatto, allora... Possiamo fare nomi comunque? No, la ditta è, chiaramente quando presenta il progetto deve presentare anche degli studi in cui dicono che è compatibile con l'ambiente, perché altrimenti è inutile presentarlo. Ora siamo nel momento in cui anche gli oppositori possono presentare le loro opinioni sotto forma di osservazioni, facendosi aiutare da geologi oppure da esperti di avifauna o di altre cose per evidenziare gli elementi di criticità che non sono stati evidenziati dal proponente, cioè da quello che vuole costruire, e ce ne sono diversi. Da quando avete cominciato a denunciare tutto ciò? Dunque, noi siamo venuti a conoscenza di questo progetto nel mese di novembre, quando i nostri comuni, insomma i sindaci dei nostri comuni, ci hanno presentato questo meraviglioso regalo in vista del Natale e hanno organizzato delle assemblee. Sindaci tutti d'accordo con questo progetto? I due sindaci, loro non lo ammettono pubblicamente, dicono che sono in una fase di approfondimento e non hanno mai avuto l'onestà intellettuale di dire qual è la loro posizione. Si dichiarano continuamente in una fase di studio. E quindi niente, noi sono state organizzate queste quattro assemblee, due nei comuni di Dicomano e di Vicchio e due nelle frazioni di Villore e di Corella, dove l'ingegnere che gestisce questo progetto della ditta proponente è venuto a presentarlo. D'accordo? Però ecco, io una cosa volevo dire, al di là di tutti i dati tecnici che si possono tirar fuori, il mio appello, il mio invito è quello alle persone di andare sul posto, perché nel momento in cui uno va in un posto che sembra l'Amazzonia, immediatamente viene illuminato dalla infattibilità di questo progetto. Non può immaginare che lassù, dove ora c'è il nulla se non la natura incontaminata, arrivino dei bilici di dimensioni sconvolgenti portando questi mostri e li piazzino lì. Mostri che fra 20-30 anni non serviranno più a niente e resteranno delle cattedrali nel deserto. E già tanto se serviranno in questo periodo, io ho i miei dubbi, perché non sono zone ventose, sono zone dove a volte ci sono delle grandi raffiche di vento, a volte non c'è nulla. Quindi non è un posto dove tira una brezza marina continua e costante. Un'ennesima grande opera inutile, insomma, quelle che servono al 5% del tempo. E quindi ecco, andare lassù a vedere qual è il luogo destinato chiarisce qualunque dubbio, cioè lì non è fattibile, non si può, non è fattibile. E son volate anche le prime denunce, sì. Ci hanno detto. Allora, sabato si è fatto un flash mob a Vicchio, e un flash mob è una manifestazione non manifestazione, nel senso che delle persone indossano delle magliette, stanno zitte, stanno ferme e non succede nulla. Alla fine del mob però alcuni hanno deciso di fare il giro della piazza, hanno osato fare questa cosa veramente provocatoria, e quindi qualcuno ha chiamato i carabinieri, che sono arrivati subito, hanno preso i documenti delle persone che sono riusciti a fermare, altri se ne sono... Insomma, non ce l'aspettavamo, è stato un chiaro segno di come si vuole aprirsi. Tieni presente che stiamo uscendo dal blocco totale che è durato 3 mesi, per 3 mesi non abbiamo più potuto fare assemblee, riunioni tra di noi, ma solo usando Zoom e cose di questo genere. Quindi ecco, questo è il modo in cui l'amministrazione pubblica cerca il dialogo con noi. Noi li abbiamo invitati, non ci hanno mai risposto, hanno risposto con dei proclami dicendo che noi non siamo civili, semplicemente perché gli chiedevamo di prendere posizione. Ecco, e invece di venire loro ci hanno mandato i carabinieri. Questo dà un po' la misura del modo in cui si vuole rispondere alla protesta dei cittadini, che è una protesta garbatissima. Voi siete un gruppo di cittadini e basta? Vi siete organizzati in che forma? E se qualcuno vuole informazioni di voi, come vi contatta, come può fare? Sì, dunque, c'è un comitato spontaneo, che vuol dire un comitato che non è depositato, non ha rappresentanti, non ha una forma legale, ma è legittimo, perché, viva Dio, in Italia esiste ancora un po' di democrazia, quindi è consentito... O dovrebbe. Dovrebbe. È consentito ancora tutta una serie di iniziative farle in questa maniera. Quindi siamo cittadini, alcuni sono locali, altri sono simpatizzanti che vengono da fuori, e poi c'è il contatto con le associazioni ambientaliste, Italia Nostra, non ci sono alcune delle associazioni che sono favorevoli agli impianti eolici, come ad esempio Lega Ambiente o Greenpeace. Magari ci sono dei simpatizzanti a livello locale, ma non c'è il beneplacito dell'associazione a livello nazionale. Poi ci sono cacciatori che questa volta hanno capito molto bene che è un rischio per il territorio. Infatti siamo molto contenti, perché i cacciatori spesso entravano in contrasto con gli ambientalisti, invece questa volta è una battaglia comune molto sentita. È importante questo. Sì, e poi a livello nazionale si sta creando una situazione, perché questa nuova proposta di abolire le sovrintendenze, che è stata la... oddio, mi sono perduto un attimo. La proposta di abolire le sovrintendenze. Sì, allora, per ripartire dal blocco economico, c'è chi sta proponendo di togliere le sovrintendenze, lo chiamano sburocraticizzazione. Okay, sì. In realtà vorrebbero, siccome la sovrintendenza è il più grande impedimento per chi vuole costruire questi impianti, riuscendo a bypassarla, ecco che riuscirebbero ad avere via libera. Mi sono un po' impappinato. No, è chiaro. Sì. Cioè, nel tentativo di snellire il tutto, loro poi danno un po' più spazio a chi invece vuole costruire, e questo non è un bene. Sì, perché sono dei grandi gruppi finanziari che hanno capitali enormi e quindi cercano con tutti i mezzi di ottenere quello che vogliono. Noi siamo dei piccoli, poveri cittadini che di mezzi non ne abbiamo. Voi avete il sito, sì, esatto, il sito, contatti, avete dei contatti, qualcosa anche per informare, no? Chi si vuole informare su quello che sta accadendo e sulle proposte diverse che Giusto. Voi fate. Dove... Allora, abbiamo una pagina Facebook che si chiama Crinali Liberi, una parte dei protestanti, diciamo, di quelli che protestano si sono riuniti in queste, si identificano in questo. C'è una chat su WhatsApp che discute quotidianamente di tutte le cose. C'è un blog che si chiama sempre Crinali Liberi, e abbiamo una mailbox che è crinaliliberi@gmail.com, e questo è tutto. Perfetto, direi abbiamo tutte le informazioni necessarie. Magari noi vi chiediamo se avrete voglia anche nel tempo, comunque come radio ci siamo a disposizione, quindi se quando fate iniziative, se ci sono degli sviluppi, se avete qualcosa da dire, contattateci e insomma, noi vi si intervista volentieri. Vai, noi vi lasciamo il nostro materiale e poi ci si tiene in contatto senz'altro. La lotta continua. Grazie mille. Grazie mille. Insomma, le grandi opere inutili continuano a dilagare, Covid, non Covid. Sì, infatti, soprattutto in questi giorni che ci arrivano anche notizie dalla Val di Susa non proprio simpatiche, ma andiamo con un po' di musica e poi rientriamo perché sta per cominciare l'assemblea sulla garanzia partecipata, vorremmo intervistare qualcuno anche dei banchi e di Val di Seve in transizione, e quindi si va da massi, vai, va. Vai, musica, 17:19, Stay Wombat. Certificazione, se vogliamo, nel senso che comunque come funziona. Ovvero, siamo in diretta durante l'assemblea al mercato di Ponte a Seve che racconta un po' cos'è la garanzia partecipata. Ma anche trasformatori, creme, come vedete. Il discorso è andare a osservare il lavoro, andare a osservare lo spazio dove il produttore lavora, avere la possibilità di incontrarlo direttamente nel luogo dove lavora. Inizialmente quando si fanno queste cose si fanno delle visite direttamente nello spazio e nel luogo, nella casa, nell'azienda, nel laboratorio del produttore. Le visite vengono fatte semplicemente così, nel senso che quel giorno lì fissato, poi chiaramente semmai dopo parliamo anche di date, quel giorno lì fissiamo una giornata e semplicemente almeno un produttore similare, ovvero che lavora nella stessa maniera della visita che dobbiamo fare, verrà alla giornata. Allora, quel giorno lì un produttore similare verrà alla giornata di verifica per vedere se questa nuova richiesta di entrare in un mercato sarà accettata, così da avere un confronto diretto, cioè per farvi capire se dobbiamo andare a vedere un apicoltore, tendenzialmente sarà un altro apicoltore che si muoverà in quella direzione per capire, perché avrà chiaramente sicuramente l'esperienza pratica, tecnica, per vedere se i lavori che vengono svolti, le pratiche che vengono svolte all'interno di quella produzione sono in linea con il sistema che noi vogliamo proporre come mercato contadino. Cioè, e piano piano, timidamente, un po' di persone si avvicinano. Quando apriamo uno spazio di un mercato contadino vogliamo che entrino in comunicazione produttori di generi alimentari e non, ma il più sani, il più puliti possibile, possiamo anche definire, utilizzare le parole biologico se vogliamo, ma l'interesse è che comunque chi lavora, chi porta un prodotto in questo spazio, in questo come in tanti altri, in uno spazio locale, porti un prodotto che in qualche maniera sia l'espressione di un lavoro pulito, di un lavoro senza veleni, di un lavoro fatto eticamente, un lavoro eticamente valido, e quindi proponga a chi va a acquistare questo prodotto qualcosa che non lo danneggi, insomma, è una distinzione particolare. Quindi quando noi andiamo a fare una visita per la garanzia partecipata, chiaramente invitiamo all'interno dal mercato a che diciamo l'esame venga fatto innanzitutto da un produttore similare e poi da tutti gli altri banchi, ma anche da chi fa parte del mercato in qualità che diciamo frequenta il mercato perché acquista delle cose all'interno di questo mercato. Cioè si chiama garanzia partecipata proprio nel senso che alla fine la garanzia che viene data rispetto a quel tipo di produzione è la visibilità, è toccabile con mano, è ascoltabile se vogliamo, è proprio un contatto diretto, nel senso che innanzitutto c'è la possibilità di esaminare il suolo, di esaminare il terreno, il laboratorio, lo spazio. E questo è un passaggio molto importante, al di là che siano produttori o persone che se ne intendono, chi compra ha il diritto, ha il dovere di decidere se quel produttore gli va bene o meno. Tendenzialmente certificati veri o propri, bollini se vogliamo, non esula, non si allontana dallo spazio locale, dal localismo in qualche maniera, perché ha bisogno di partecipazione, non è che possiamo cercare un produttore di miele a, che ne so, 300-400 chilometri, perché sarebbe difficile anche andare a fare una visita, sarebbe anche inutile, sarebbe anche, cioè alla fine la partecipazione di questa garanzia, la partecipazione è anche dare spazio alla produzione locale, cioè nel senso che in un determinato momento produttori di una certa zona che sono anche i difensori del territorio agricolo e non solo, quindi hanno lo spazio per andare a vendere. In effetti la garanzia partecipata in questo caso viene adottata da mercati come questi per vari motivi. Uno fra tutti è che tendenzialmente quando andiamo a comprare fuori da un mercato del genere, noi spesso se vogliamo comprare qualcosa di genuino, diciamo così, cerchiamo un marchio che può essere un marchio biologico o biodinamico, per esempio. Ma in quel momento lì stiamo acquistando un marchio, cioè stiamo acquistando qualcosa che è una garanzia che viene concessa da un ente terzo. Abbiamo un produttore, abbiamo chi compra da questo produttore e nel mezzo c'è un ente terzo che diciamo fa, se vogliamo, fa mercato di questo bollino, fa rispettare delle norme di produzione che però sono norme. Oltre il biologico, ma qui quello che conta è la fiducia. Ci sono dei problemi col microfono, però a breve lo sistemeranno. Comunque questo è un piccolo estratto di quello che sta accadendo in questo momento a Pontasseve. Piano piano le persone si avvicinano, questo è positivo. Sono vediamo norma, se ecco. Allora, vediamo se riusciamo a sistemare i problemi tecnici. Però si sa, l'attrezzatura è quella che è. Questo è un esplicito invito a tutti coloro che comprano, acquistano, ad approfondire di persona, a partecipare concretamente alla produzione o alla conoscenza di quello che comprano e mangiano. Quindi il personaggio, il produttore si assoggetta a queste norme, questi enti privati, quindi sotto dietro compenso, arrivano in un determinato posto, controllano delle carte principalmente, poi possono fare anche degli esami ma col costo a spesa del produttore, e rilasciano una certificazione. Questo chiaramente è un tipo di marchio un po' particolare. Innanzitutto è un'interfaccia tra quello che è il produttore e quello che è l'acquirente. La prima parte che può non interessare è proprio questo discorso di interfaccia. La seconda è che per essere quel tipo di produttore si seguono delle norme che non è detto che siano così capillari, non necessariamente, a volte rispecchiano dei disciplinari che spesso e volentieri sono anche di manica larga. E poi c'è il discorso che chiaramente quando si paga per avere un bollino, spesso e volentieri il denaro è sull'altro piatto della bilancia del bollino. Quindi a seconda di quanto si paga avremo un bollino per parificare la bilancia più o meno pesante. Ovvero spesso e volentieri noi troviamo aziende biologiche, chiamiamole così, grandissime aziende biologiche che quindi hanno parametri di organizzativi molto importanti, ma per noi piccoli produttori a volte ci facciamo le domande, perché forse seguire un'azienda enorme a livello biologico a volte è un po' complicato. No, aspetta. Subito i primi interventi, subito i primi interventi. Questo piattale qui, questo è una vergogna. Voi articoli, voi parlate di lavoro. Ecco. Io ti lavoro te per grazie, lavoro. Grazie. Allora, è calda la situazione a Pontassieve. Quindi, diciamo, questo è l'aspetto, diciamo, diretto, quindi garanzia partecipata, locale, aziende che si conoscono, fanno parte di un territorio, sono vicino al luogo dove in realtà il mercato viene svolto. L'altro aspetto molto interessante, ed è per questo che diciamo un mercato collettivo, un mercato assembleare assume questa forma di garanzia, è il fatto che c'è di rimando sempre la possibilità collettiva di verifica, cioè alla fine l'interesse della garanzia partecipata è chiaramente il controllo, se vogliamo, ma oltre a questo controllo è la possibilità che anche chi compra e anche gli altri produttori vanno nel luogo di produzione. C'è uno scambio di informazioni, c'è uno scambio di visibilità, di elementi produttivi, insomma. Alla fine è questo l'aspetto della garanzia partecipata che interessa molto, cioè è verificabile e nello stesso tempo stimola la possibilità di comunicare e di condividere l'esperienza di quel determinato produttore. Ed è forse, diciamo, la cosa più importante e interessante per quanto riguarda una garanzia. Io mi fermo un attimo. È un'ottima sintesi di come funziona la garanzia partecipata, che ricordiamo anche nell'ultimo documento dei mercati contadini è stata richiesta alle istituzioni di essere tutelata e riconosciuta, perché di fatto è l'unico modo che può garantire davvero la trasparenza e la genuinità dei prodotti, aprendo le aziende, facendo vedere quello che uno produce ai consumatori. Assolutamente, cioè. Perché come ci ricordava chi sta parlando in questo momento, il biologico se lo paga l'azienda che vuole essere biologica, quindi mette in campo anche del soldo e del denaro, e poi non è detto che comunque sia meglio di qualcosa di convenzionale, nel senso che comunque la garanzia partecipata mira anche a vedere che non ci sia sfruttamento lavorativo, che non ci sia uno sfruttamento terribile del terreno, che non ci sia una devastazione ambientale in corso, insomma, cose che per noi sono molto importanti. Assolutamente, e non c'è di mezzo il fattore denaro, che a volte serve per avere un marchio, bypassando però poi alla fine certe garanzie, no? E poi per me è bellissima questa cosa della fiducia, cioè io devo conoscere le persone da cui compro, mi fido, esatto, di loro. Non è una fiducia cieca, no? È una fiducia che si basa su quello che tu puoi vedere. Concreta, tastabile, esatto, direi. Esattamente. Beh, forse spezzerei un po' con un po' di musica, poi riprendiamo con il discorso. Andiamo un po' a Kathmandu. Si fumava, non ci davano la sola, uno sguardo o soltanto la parola, ci bastava per capire dove il lupo va a guaire. facevano pensare dove il lupo va a sbranare. A Kathmandu non c'eri più, ma ho visto i tuoi occhi sull'asfalto blu. A Kathmandu, quando ero giù, tra i fori e la stazione c'era via Cavour. Vimmo in un momento quando il lupo teme il vento. A Kathmandu c'è anche Guru, ci porta in paranoia predicando a testa in giù. A Kathmandu non dormi più, ti sforzi di scavare dentro i tuoi tabù. Attenzione Sanfrediano, attenzione contado, è riaperto il mercato contadino. Eccoci, siamo tornati in piazza. Siamo di nuovo qua. Ho sbagliato a cliccare su, stava partendo la pubblicità del mercato di Piazza Tasso, non era carino visto che siamo... No, forse no. Sembra quasi concorrenza, se no andiamo proprio durante la diretta della... Però diciamo che comunque anche il mercato di Piazza Tasso, ma tutti i mercati insomma della rete... nostra, no? Della comunità di resistenza contadina o che quelli che intercetta eccetera, diciamo, usufruiscono della garanzia coordinamento partecipata delle comunità contadine toscane. È vero. Possiamo dirlo, parlare, ormai si può dire. Tanti esponenti che sono qua al mercato a Pontasseve fanno anche parte del coordinamento delle comunità contadine toscane CCCCT. Quasi, era quasi CCCP. C'è qualche C in più che comunque si ritroverà anche a breve, perché ricordiamo c'è stata l'altra diretta dove il nostro Ercamicio era sempre presente domenica scorsa con The Gringos, perché comunque anche questa modalità della garanzia partecipata entra in tutta queste serie di rivendicazioni che comunque i contadini stanno portando avanti. È una maniera più sana per noi di coltivarli, di vendere, di avere un rapporto e un collegamento forte città e campagna, produttore, coproduttore, chi compra e chi vende. Sì, e poi ricordiamoci che questo sistema, non è quello della garanzia partecipata, non è che è nato così da nulla, sono diversi decenni, e mi sembra in Inghilterra il Guaranteed Shared System è stato proprio decodificato, ci sono comunque dei passi importanti da seguire affinché funzioni, e uno di questi è proprio la calendarizzazione degli incontri che vengono fatti nelle aziende, in cui sono incontri aperti al pubblico, a chiunque voglia andare, vengono pubblicati generalmente o sulle pagine Facebook o sui nostri siti, e chiunque quindi può decidere di andare quel giorno a visitare l'azienda tal dei tali o la comunità contadina tal dei tali che fa il miele, fa le verdure, fa la frutta, c'è l'allevamento eccetera, e passa una giornata con loro, e quindi può poi portare testimonianza diretta di quello che incontra. Per cui insomma è un sistema che davvero funziona, perché ce ne rendiamo conto noi, chi sta all'interno dei mercati contadini se ne rende conto di quanto davvero funzioni, perché arrivi a conoscere molto in profondità il produttore o la produttrice, e anche in un'ottica di progettualità, per cui se quel produttore o produttrice ancora non riesce a evitare di comprare certi ingredienti da un circuito non totalmente genuino, allora si attiva un meccanismo di mutuo aiuto, comunque di, appunto, di progettualità, in cui si cerca di risolvere questa cosa e di fornire gli strumenti per cui si possa migliorare questo aspetto della propria filiera. In ogni garanzia partecipata, infatti, è sempre importantissimo e d'obbligo e presente che ci sia. Che ci sia anche uno o più coproduttori affini, perché l'intento è quello, nel senso, se siamo in due che produciamo delle cose simili, magari tu non sai dove reperire dei prodotti, io te lo posso dire, tu non sai come fare certe cose, io te lo posso dire, oppure tu le fai in un modo, io le faccio in un altro, ci scambiamo, ci confrontiamo, in modo che ognuno dei produttori si possa migliorare l'un con l'altro, anche uno scambio di saperi questo incontro, cioè ognuno può portare qualcosa di positivo all'altro. E poi possono essere anche comunque momenti in cui, come dici te, se camicia, se c'è qualcuno che ha bisogno, si innescano tutti questi meccanismi di mutuo aiuto, che sono sempre meccanismi che fanno parte della garanzia partecipata, perché comunque permettono la conoscenza reciproca e anche l'ammettere: io ho bisogno di quella roba lì, aiutatemi a migliorarla, a sistemarla o a realizzarla. Sì. Sono già stati tanti gli incontri che garanzia partecipata della comunità di resistenza contadina Celloranons, che incontrate in Piazza Tassoni il venerdì. Ma sono già un po' anche gli incontri di garanzia partecipata che sta organizzando la Val di Sieve in Transizione, un movimento più giovane ma comunque molto attivo, ce ne riescono a farne una o due al mese. Il primo sarà da Masti, ci sarà. Il primo incontro a luglio di garanzia partecipata sarà presso di te, ci vuoi dire qualcosa? Ciao a tutti, sì, da luglio, credo a fine luglio, faremo l'incontro in azienda da me. Io sono il pastore, uno dei pastori del mercato in transizione. Ci ritroveremo in azienda per vedere un po' come funziona questa vita dura. E quindi ci saranno pecore tosate, si diceva. Sì, prevalentemente pecore tosate, perché ormai il caldo è arrivato. E niente, vedremo il laboratorio dove trasformiamo il latte per fare i vari formaggi e insomma tutta l'azienda. Ricordiamo che è sempre prevista la partecipazione di qualche produttore affine, in modo che possa comprendere meglio come, sì, come viene lavorata quel prodotto. Come... Sì, nel nostro mercato in questo momento non siamo... Cioè c'è un'altra persona che produce formaggio e tra l'altro abita molto vicino a noi, quindi sicuramente ci saranno loro. E... Via, se avete bisogno vi mandiamo qualcuno da Piazza Tasso. Non c'è problema, cioè, benvenuti tutti. Insomma, sì. Viva le sinergie contadine. Grazie, ragazzi. Massi. Grazie e buon proseguimento. Bene, allora in attesa che si avvicini e che arrivi poi la leggera, noi continuiamo con un po' di musica, poi intanto sta continuando l'assemblea che non vi proponiamo per intero perché vi risparmiamo un pochino la vostra sanità mentale. No, magari dopo riprendiamo qualche concetto, intervistiamo qualche altro produttore, via. Una questione di qualità, fanculo qualsiasi tecnica, quello che mi interessa è l'anima di chi suona e non la qualità dello strumento. Fanculo qualsiasi tecnica, quello che mi interessa è l'anima di chi suona e non la qualità dello strumento. Ascoltaci streaming, il podcast, ascolta le repliche, accedi al nostro blog. Da retta al Wombat, anche qui alle 17.46 a Pontassieve, al mercato di Val di Seve in transizione, tanti bellissimi banchi sani, genuini, in un ambiente sano e genuino, durante una bellissima assemblea dove si sta parlando di garanzia partecipata, come vi abbiamo raccontato ampiamente fino a pochi minuti fa. Adesso a sedere nei nostri panchetti, nella panchina della piazza insieme a noi, c'è Lorenzo, uno dei fondatori e spingitori di Val di Seve in transizione. Intanto ci piacerebbe capire e sapere da quando è nata questa realtà, perché se ne sente parlare, se ne comincia a sentir parlare tanto, ma da poco relativamente. Ciao, sì, Val di Seve in transizione è una transition town che abbiamo fondato ormai un anno e mezzo fa, a gennaio del 2019, ispirandoci un po' al movimento internazionale delle transition town. Abbiamo fatto un incontro pubblico dove abbiamo chiesto alla cittadinanza di Pontassieve, della Val di Seve, di venire a incontrarci e gli abbiamo raccontato un po' quelli che sono un po' i vari problemi che probabilmente ci saranno nei prossimi 30-40 anni nel nostro paese o nel mondo più in generale: il cambiamento climatico, il problema del picco del petrolio e tutto quello che minerà la nostra sicurezza e situazioni anche come quella che c'è stata fino adesso di crolli economici, eccetera. Per aumentare la resilienza di un paese, di tutta la comunità, abbiamo cercato di inventarci dei progetti che portassero tutta la zona del territorio a essere più resiliente, non per forza progetti originali nostri o inventati, ma ispirandoci a cose che abbiamo sentito, visto, a assemblee, perché comunque tutto è stato sempre in forma assembleare. Abbiamo creato una serie di progetti già da un anno a questa parte, coinvolgendo più di 150 persone che in questo momento sono attive quotidianamente, muovendoci su più aree. C'è l'area dei rifiuti, per la quale siamo riusciti a far firmare la delibera rifiuti zero al comune di Pontassieve, quindi inizieremo con il porta a porta. Creeremo, perché già abbiamo creato, un centro di riuso dove si prendono oggetti a fine vita e si restaurano e si rimettano in circolo, però si spera di riuscire a fare un centro di riuso molto più grande, perché adesso l'abbiamo aperto a Londa e invece l'idea è di trasportarlo comunque a Pontassieve, dove siamo comunque a un quarto d'ora da Firenze, e fare una cosa molto più grande. Stiamo partendo con il progetto di Reconomia, dove stiamo un po' sondando tutti i negozi, aziende e enti che ci sono su tutta la Val di Seve, dandogli un po' una serie di punti che loro possono fare per migliorare un minimo il loro impatto, quindi magari rifarsi a un'agricoltura locale, non vendere plastica, cioè per limitare, comunque da una parte limitare l'impatto, dall'altra comunque avere delle risorse più a chilometro zero, e quindi in un caso anche di crisi, di disastri, cioè creare un'economia che può resistere, no? In quel momento, quindi un'economia resiliente. E poi abbiamo fatto Incredible Edible, abbiamo preso le aiuole del paese che il comune ci ha dato in gestione, abbiamo iniziato a coltivarci verdura che la gente va, prende, scambia e rimette, ce n'è una proprio qui vicino. E poi l'altro progetto più grosso è stato il mercato che abbiamo fondato l'anno scorso. Comunque ci stavamo domandando come fare a superare un po' anche l'idea magari di gruppi di acquisto che, per quanto siano molto utili, tante volte riescono a comprare solamente da fornitori che vengono anche da più lontano e che magari non per forza sono collegati alla dimensione contadina. Allora, abbiamo creato un'assemblea, abbiamo sentito un po' i vari agricoltori e contadini della zona e da lì abbiamo deciso di partire con un mercato che poi è sullo stesso modello del mercato di Piazza Tasso a Firenze. Grandi. Hai parlato già un paio di volte di accordi comunque con il comune, il che vuol dire che il comune è aperto e sembra recepire insomma questo bisogno. Quindi vorrei sapere da te un po' quali sono quindi le risposte dal parte dell'amministrazione, le risposte da parte della popolazione locale a questo mercato che non è soltanto, come hai detto te, una parte diciamo di tutto il progetto Val di Seve in transizione, quindi diciamo la risposta delle amministrazioni e della popolazione locale a tutta questa serie di attività, non solo al mercato insomma. Per ora è stata molto positiva, devo dire che l'anno scorso abbiamo fatto anche un po' leva sul fatto che c'erano le elezioni e quindi abbiamo fatto un confronto aperto a tutta la cittadinanza dove cioè tutti i candidati sindaci si sono un po' sbilanciati su quello che potevano fare. Il comune di Pontasseve in generale nell'ultima amministrazione, cioè anche negli ultimi 4-5 anni prima di questa legislatura è stato molto attento, perché ci sono persone magari che sono attenti, si è un po' distaccato magari anche da quella visione unica del PD che invece passa solamente a un certo tipo di progresso, un certo tipo di cose, e quindi diciamo che il rapporto con il comune di Pontasseve è stato molto positivo, nel senso che tantissimi progetti che riusciamo a fare loro ci stanno dando comunque un supporto. Se non erro siete anche uno dei pochi mercati che comunque anche nel periodo di chiusura non ha mai ricevuto uno stop. Esatto, sì, proprio guarda, l'altro giorno ne parlavamo anche con il comune, anche la sindaca stessa ha detto che per loro era assurdo l'idea che comunque un supermercato e un ambiente al chiuso è molto più rischioso anche, no? Per la situazione magari coronavirus, cioè proprio la sicurezza eccetera, mentre un mercato all'aperto come abbiamo fatto qui è sempre stato molto, poi perché l'abbiamo anche tutelato, abbiamo tenuto per le distanze con tutte eccetera. Le norme, non... Esatto, però sì, quello è riuscito, quindi il rapporto con l'amministrazione è buono e siamo molto contenti. E quello con i cittadini? Con i cittadini è buono, nel senso che ogni attività che riusciamo a fare vediamo che c'è coinvolgimento, che le persone arrivano, si confrontano, ci sono, è chiaro che possiamo sempre fare meglio, una città di transizione potrebbe arrivare veramente a migliaia e migliaia di persone, io spero che si riesca a spingere nel futuro questa idea di transizione in altri posti, per esempio parlavamo l'altro giorno di iniziare a pensare un po' anche alla Piana in transizione e magari sperare che in un futuro, quando ci siamo magari anche un po' formati qui, che comunque la Val di Sieve forse è anche un pochino più facile come territorio, perché ci sono un sacco di contadini, perché la situazione è molto aperta politicamente, diciamo che non è come a Firenze con Nardella in questo momento, speriamo che poi magari in futuro possiamo aprire tutta una serie di cose anche su Firenze. Perché... O se volete passare anche dalla Val di Pesa, noi potremmo essere felici di fare Val di Pesa in transizione. Stiamo cercando spunti, Lore, per Val di Pesa in transizione. No, quello secondo me non è difficile, comunque basta far partire il processo. Io quello che ho visto l'anno scorso è che sebbene tutti avessero dei dubbi perché dicevano magari che le persone del paese non erano pronte o se ne sarebbero fregate, non è stato così, perché una volta che lo comunichi bene, una volta che lo comunichi con un minimo di appeal, no? Perché poi la gente ha bisogno anche, no? Di un minimo di supporto. Vabbè, di essere visivo. Catturati da qualcosa, interessati. Sì, più che altro capire che sono veramente speranze per il futuro reali, cioè per me la transizione ecologica deve passare da questo, deve passare dalla riorganizzazione delle comunità nei paesi e nei villaggi, uscire magari dall'idea di metropoli e di città e tornare a una gestione di tutta quella che è l'aspetto sostenibilità e umano, sociale che c'è su un territorio. Io per esempio qui ho intenzione di lavorare anche molto su quell'aspetto, sperando di riuscire a creare anche una rete di persone che si occupano di capire, oltre all'ecologia e tutto, come ridistribuiamo la ricchezza sul territorio, perché magari l'importante sarebbe anche mappare un minimo chi sono le persone che hanno più bisogno, chi in momenti di crisi può ritrovarsi, perché se qua arriva una siccità come si sta per aspettare adesso, cose di questo tipo, come arriverà prima o poi? Esatto, no, è probabilmente presto. Ma immagino poi anche uno degli obiettivi sia riuscire a fare come ricordiamo a Monteveglio, per esempio, una delle prime transition town italiane, di cui non seguo poi gli sviluppi da un po' di tempo. Mi ricordo che lo stesso comune era riuscito a firmare insieme ai cittadini una carta piuttosto illuminata sulla gestione agroenergetico produttiva di questo paese, no? Quindi immagino sia uno degli obiettivi. Sì, sì, esatto. Cioè quello che stiamo facendo è lanciare progetti su tutti i fronti. E con il comune ci stiamo confrontando, stiamo tenendo un tavolo mensile in cui ci confrontiamo e vediamo in che modo loro possano supportare, in che modo noi possiamo supportare se ci sono iniziative di questo tipo. Io ho un rapporto molto aperto con il comune, sento che io gli dico come le cose mi fanno sentire. Se sei di qua? Sì, io abito proprio qui a 200 metri da questo posto e quindi. E com'è che gli dici al comune? Nel senso, un libero cittadino, no? Visto che tanti hanno dubbi o cose, vai lì e chiedi di parlare? Come funziona? Sì, boh, io la prima volta sono andato a presentarmi, gli ho detto che avevo intenzione di lavorare sull'attivismo qui anche nel paese, di non fare solamente attivismo a Firenze, che magari è quello che ho fatto per tanti anni. E invece ho detto ok, voglio fare delle cose, io magari non faccio parte del vostro partito, non sono per forza un simpatizzante del vostro partito, però se riusciamo a collaborare su dei punti bene, e poi se ci sono delle cose che proprio devono andare male, se delle cose io le trovo come cose dannose per la società, per l'ambiente eccetera, io non mi farò problemi a denunciarle, per cui non c'è un rapporto di quell'amicizia dove per forza ti devi dire le cose per bene, insomma cerchi, io sono sincero perlomeno, poi quello che succede deve succedere, però per me l'importante è partire da un po' dall'entusiasmo e poi dalla sincerità di dire proviamo. Via, la sincerità paga alle volte, meno male. Sì, magari in altre città non sarebbe forse così facile. Qua probabilmente hai trovato un terreno fertile, diciamo. Esatto, anche quello. Qui però c'è un terreno fertile, però secondo me se il terreno è abbastanza fertile e te riesci a presentarti bene, ce la puoi fare anche in una città come Firenze. Firenze potrebbe anche avere queste potenzialità. Il problema è che Firenze è comunque una città più complessa da gestire. Tutto il circolo di persone che stanno a livello di potere dietro alle decisioni di Firenze. C'è un po' più di lobby dalla ristorazione agli aeroporti, insomma è ovviamente esatto. Più complicato. Poi non siamo mai, per esempio, che ne so, io faccio parte anche di Mamme non inceneritore, per tanti anni non c'è mai stato verso di confrontarsi con il comune. No, a Firenze l'unica speranza ogni tanto è, come si era cercato di fare col mercato di Piazza Tasso, di iniziare a ragionare, a parlare a livello di quartiere, quindi magari con le amministrazioni di quartiere piano piano e con un grandissimo coinvolgimento, come dicete, comunque da parte della cittadinanza e quindi sì. Anche perché il punto è quello, cioè se te vedi che la cittadinanza alle spalle è forte, è chiaro che magari i decisori politici in qualche modo possano anche prendere coraggio, perché tante volte io credo, ho visto molte persone che stanno in amministrazioni, ci sono persone che magari sarebbero anche di per sé in gamba, ma non hanno a volte proprio quel coraggio tale da dire mi spingo io in prima persona, però se gli fornisci una fascia ampia della popolazione dietro, invece magari quel una coraggio base consensuale puoi far... Esatto, non solo i consensi, ma anche proprio far vedere che magari è apprezzato quello che fai. Io per esempio sento che il rapporto che abbiamo qui col comune è di fargli sapere che noi stiamo apprezzando questo. Io mi trovo bene con l'amministrazione comunale, a prescindere da partiti o cose varie. Poi è chiaro, noi abbiamo la nostra visione politica e il nostro modo di porsi. Ma... Insomma, se c'ho una multa nell'auto te la posso portare, no? Non puoi fare nulla. No. Anzi... Non credo proprio. Però ho visto questa cosa molto carina che credo almeno nelle mie zone della Bergamasca non sarebbe mai successa, i vigili che hanno visto la macchina di qualcuno che abitava qua vicino nella zona del mercato e sono andati a suonargli a casa dicendogli sposta la macchina. Sì. Da noi avrebbero multato e basta e sì, chiamato al massimo esatto. Il carro attrezzi, quindi comunque c'è un'attenzione rispetto magari al cittadino davvero dire vabbè. Qua è successo una sola volta con la polizia, ma devo dire che la polizia è stata molto positiva con noi anche durante il coronavirus, comunque hanno fatto controlli, sono passati sempre qui e non c'è mai stato un conflitto, perché comunque l'idea è quella anche di dire la transizione perché ha funzionato, secondo me, a differenza di molte associazioni, o perlomeno sta funzionando, è che non si sta facendo una tessera, non si sta dicendo entri nella transizione e fai parte della transizione, cioè te puoi stare con la tua identità, anche i negozi che stanno qui, noi gli stiamo dicendo noi difendiamo i negozi, per esempio qua abbiamo sentito che nell'ex cementificio di Italcementi, che si vede tra l'altro qui dalla piazza, che è un cementificio dove è stato sfruttato il territorio, c'è stata una miniera gigantesca sulla collina e per anni questo cementificio ha portato danni sul paese, si sente che il comune di fianco, cioè il comune di Pelago, vuole in qualche modo costruire un centro commerciale nuovo. E noi ci stiamo dicendo comunque anche ai vari commercianti che non è la lotta non è tra il mercato e il commerciante che ha paura che magari il mercato gli vende tre verdure in più e lui no. La lotta è magari tra la grande distribuzione di un certo tipo e invece chi porta avanti altre cose, perché i piccoli commercianti hanno di positivo il fatto che possano fare ancora delle scelte. E quindi anche se in questo momento vendono dei prodotti che non tutti quei prodotti magari sono prodotti perfetti, magari comunque vendono alcune marche come la Barilla o come la Ferrero eccetera, ma allo stesso tempo però loro hanno la possibilità di dare una seconda scelta, cosa che invece il supermercato non ha, perché di per sé il supermercato fa i soldi invece proprio sullo sfruttamento, e quindi se le casse comunque si riempano delle verdure a basso costo, delle cose a basso costo, anche se poi metti un prodotto biologico fatto bene, quello non è che ti sciacqua dai tuoi mali, mentre un piccolo negozio invece può farlo. Un pochino lo fanno con il reparto bio adesso. Ci provano, però quello è comunque greenwashing, mentre un piccolo negozio invece a un certo punto se vede che la cittadinanza inizia a comprare quel prodotto riesce a cambiarlo in tempo reale, cioè da una settimana all'altra cambia il fornitore, non c'è quel meccanismo lì che c'è nella grande distribuzione. Per quello, insomma, il bello della transizione è far capire come la transizione non è un percorso che fa un gruppo di cittadini, non è un percorso che si fa con un leader particolare, si fa invece mettendosi tutti sullo stesso livello e dicendo ok, cambiamo il modo di raccontare la storia del futuro, invece di raccontarci che tutto andrà a rotoli, iniziamo a raccontarci che le possibilità ci sono, e una volta che iniziamo con delle storie belle che viviamo tutti i giorni, magari anche l'attivismo che facciamo invece di essere quel qualcosa che magari a volte ci opprime, perché magari noi facciamo gli attivisti e ci sentiamo tante volte di dire sì, devo sacrificare il mio tempo per questa causa. Io qui non sacrifico il mio tempo, io mi passo tutti i giovedì al mercato e sto benissimo. Bella. E infatti è un mercato che si sta cominciando a animare, cioè, sentite probabilmente un bel brusio sotto, anche se i nostri magnifici microfoni impediscono la caute microfoni. Cosa ci aspettiamo oggi? Vedo che arrivano musicisti, stanno cominciando a tirare fuori strumenti. Adesso ci sarà un concerto, il primo dopo tutta la quarantena, che sarà la Fanfara della Leggera, che amici. Suonerà adesso musica popolare, che dovremo ballare distanziati in qualche modo, faremo, ma comunque ci proveremo. Anche se non vedo grandi distanziamenti, però sì, è importante mantenere la musica in piazza. Bene, a proposito dei balli e delle certe istituzioni che si mascherano, ma non quella di Pontassieve, che finalmente sembra essere almeno questa un po' più illuminata di altre, facciamo sentire un po' del solito De André. Grazie ancora a Lorenzo, a tutto il mercato, a tutto il progetto Val di Sieve. Grazie a voi. Drogato da troppe sconfitte, cede alla complicità di Nobel che gli espone la praticità di un eventuale premio della bontà. Maria, ignorata da un Edipo ormai scaltro, mima una sua nostalgia di natività. Io con la mia bomba porto la novità, la bomba che debutta in società, al ballo mascherato della celebrità. Dante alla porta di Paolo e Francesca, spia chi fa meglio di lui. Lì dietro si racconta un amore normale, ma lui saprà poi renderlo tanto geniale. E il viaggio all'inferno ora fallo da solo, con l'ultima invidia lasciatala sotto un lenzuolo, sorpresa sulla porta d'una felicità, la bomba ha risparmiato la normalità, al ballo mascherato della celebrità. Non ha una natura gentile, ma spinta da imparzialità, sconvolge l'improbabile intimità di un'apparente statua della pietà. Grimilde di Manhattan, statua della libertà, adesso non ha più rivali, la tua vanità e il gioco dello specchio non si ripeterà. Sono più bella io, ho la statua della pietà, dopo il ballo mascherato della celebrità. Nelson strappato al suo carnevale, rincorre la sua identità e cerca la sua maschera, l'orgoglio, lo stile, impegnati sempre a vincere, mai a morire. Poi dalla feluca, ormai a brandelli, tenta di estrarre il coniglio della sua Trafalgar e nella sua agonia sparsa di qua di là implora una Sant'Elena anche in comproprietà al ballo mascherato della celebrità. Padre pretende aspirina ed affetto e inciampa nella sua autorità, affida a una vestaglia il suo ultimo ruolo, ma lui esplode dopo, prima il suo decoro. Mia madre si approva in frantumi di specchio, dovrebbe accettare la bomba con serenità, il martirio è il suo mestiere, la sua vanità. Ma ora accetta di morire soltanto a metà, la sua parte ancora viva le fa tanta pietà, al ballo mascherato della celebrità. Qualcuno ha lasciato la luna nel bagno, accesa soltanto a metà, quel poco che mi basta per contare i caduti, stupirmi della loro fragilità. E adesso puoi togliermi i piedi dal collo, amico che m'hai insegnato il come si fa, se no ti porto indietro di qualche minuto, ti metto a conversare, ti ci metto seduto tra Nelson e la statua della pietà, al ballo mascherato della celebrità. Infatti, al ballo mascherato della celebrità, oggi c'è la leggera. Infatti bando le ciance, basta parlare, transizione, cose impegnate, tutto. Adesso arriva il momento musicale. E pensare che quando l'hanno proposto al mercato in Piazza Tasso abbiamo detto no, magari aspettiamo settembre. Esatto. Giusto per parlare di transizione, di posti dove funziona di più, posti dove funziona di meno, ma va bene. Iniziamo da Pontasseve nella speranza che Pontasseve diventi l'esempio e il centro del mondo. Ah, sta cominciando a suonare, io provo a allungare il microfono, questo qui che c'ha un cavo forse abbastanza lungo e mi avvicino. Questo invece è un po' più... Ti chiedo, dama, di aiutarmi a sbrigliarlo. Assolutamente, io ti seguo. Comincia la leggera a suonare in questa magnifica piazzetta, molto bello, molto bello. Si aprano le bocce! È molto ingarbugliato, allora dobbiamo... Io lo sbriglio così. Grande, stiamo giocando a nodo. Ricordiamo in diretta Wombat, diretta specialissima da piazza dei 14 martiri, mentre la buona dama sbriglia il microfono al buon Camicia e il buon Camicia si avvicina. L'ultimo nodo lo lasciamo, un microfono, vedi 5 metri di cavo che servono, eccoci qua. E quindi state ancora un pochino con noi perché adesso sentiremo un po' di musica dal vivo della leggera. Ce la stiamo facendo a sbrogliare tutto, ma so che voi già state sentendo questa musica suave. V- Vai, camicia. Vado. Controlla. Il buon camicia si sta avvicinando. Proviamo ad alzare un po' i volumi. Melodia, melodia, le persone si avvicinano. Per ora ancora nessuno che balla, ma tanti che ascoltano felici. Bambini incuriositi. Camicia in mezzo al gruppo con microfono. E la leggera, bravissime, bravissimi, nove elementi al completo, un po' di tutto, dai clarinetti alle fisarmoniche, ai trombe, tromboni, ocarine e tube, e pure un flauto. Devo abbassare il volume, mi dice... Quando parli te, quando camicia, parlo io, giustamente, devo abbassare il volume, se no sviene un gran casino. È una gran bella diretta, comincia a essere molto vissuta la piazza qui a Pontassieve, il mercato di Val di Sieve in transizione per questa diretta speciale Wombat. Vi facciamo sentire un po' di bella musica qua dalla piazza. Si può ballare anche se a distanza di un metro gli uni dagli altri. E poi dopo abbiamo un'altra intervistina. Ci stanno chiedendo in vari, insomma, di dire la loro su quello che sta succedendo, e quindi intervisteremo piano piano un po' tutti fin quando batteria ci assista. Hanno smesso di suonare Dama intanto, quindi io mi ritorno qui, vado a comprarmi, a prendere un bicchierino di vino. Camicia, c'è una prova, prendine due, vai, di bicchierini di vino. Prendo dei bicchierini di vino? Ma nel frattempo ti lascio chiacchierare. Chiacchiero o oppure si manda mi importa la sega, anche se vuoi. Allora, adesso torniamo un po' a sentire la leggera in diretta da Piazza. Sono ripartiti, lasciamo a loro lo spazio giusto. Ottima musica, veramente l'orario migliore, tante persone in piazza, finalmente si respira e si torna a cantare, a ballare, a socializzare, a stare un pochino insieme. Cose così era da parecchio che non si vedevano. Siamo molto contenti di essere qua e essere testimoni anche di questo bellissimo mercato e dell'iniziativa. Panchine piene, persone incuriosite, bambini che giocano e la leggera che nel frattempo piano piano si appresta a preparare un altro nuovo pezzo. E il buon Camicia così, in mezzo alla piazza, col suo bicchiere di vino, il microfono in mano, che cerca anche lui di carpire l'attimo. Io vago per la piazza e ho colto però sguardi assai interessati a farsi intervistare, quindi io direi già di iniziamo. No? Con la prossima chiacchierata, vado a chiamarla. Vai te. E chiamiamo chi si occupa un pochino di questa associazione, ma ci racconteranno poi un po' meglio loro, no? Che si chiama l'arte del riuso, il riciclo e il riuso. Quindi un po' riciclano, un po' riutilizzano le cose che nella nostra vita noi scartiamo. Quindi ci ridanno vita. Ridanno vita in un progetto vario. Prima ci hanno raccontato qualcosa, ma noi lasciamo la parola a Milena, che ci racconta un pochino di questa iniziativa. Iniziativa del centro di riuso, che è stato organizzato da un gruppo di Val di Sieve in transizione, il gruppo Rifiuti. E da tanto tempo volevamo organizzare un centro di riuso, abbiamo trovato un'occasione all'Onda, un fondo che è utilizzato da un'altra associazione, l'associazione di Sicomoro, e abbiamo fatto questo laboratorio di riparazione e riuso, soprattutto riparazione, per noi è importante riparare, salvare. Beh, oggetti alla discarica. Oggetti in genere? O avete delle... Oggetti di tutti i tipi, abbigliamento, oggettistica per la casa, elettronici, mobili anche, per quanto possiamo ospitarli nel nostro spazio. Quindi i nostri obiettivi sono quelli di appunto salvare rifiuti alla discarica, diminuire lo spreco, insegnare anche delle abilità, perché la riparazione sono conoscenze che si vanno perdendo. Quindi no? c'è chi insegna, che c'è chi riceve, c'è uno scambio di competenze, sì. Una condivisione di saperi. È una condivisione di saperi, quindi c'è anche un recupero non solo di oggetti, ma anche di competenze, di tradizioni, anche di esseri umani, perché che a volte si avvicinano a queste situazioni, si avvicinano a persone che possono avere anche qualche problema, no? Quindi c'è un recupero generalizzato di tante... Chi si avvicina a voi? Dunque, la gente del paese non tantissimo per ora, bisogna conquistarla, però piano piano vediamo che con la questione della riparazione, la cosa della riparazione viene molto apprezzata. No? Piace. Il fatto di avere il ferro da stiro, di non doverlo buttare via perché ha fatto la scintilla, è una cosa che piace moltissimo, quindi... È un veicolo molto forte per avvicinare le persone. E poi... Ma queste cose voi le fate gratuitamente? C'è un corso? Come funziona? Tutto gratuitamente. E come sostenete? Come viene pagato questo fondo? O se è prestato? O se c'è una sinergia? Sì, dunque, chi viene, prende un oggetto o fa riparare un oggetto, ci lascia una piccola donazione, 1, 2, 3 euro. Qualcuno lascia anche di più ogni tanto. Quindi questo ci permette di pagare l'affitto, perché l'unica spesa che abbiamo è la spesa di gestione del fondo, bollette, affitto. Per il momento ce l'abbiamo fatta fino alla chiusura del Covid, poi siamo andati un pochino in crisi perché appunto siamo stati chiusi. Ma non c'è un appoggio istituzionale? No, assolutamente. No, per il momento no, lo abbiamo cercato, lo abbiamo chiesto, ma... Io credo che questa cultura debba ancora molto entrare nelle nostre amministrazioni. Per quanto ci abbiamo lavorato, la cultura del rifiuti zero e quindi di tutte le attività che sostengono il rifiuti zero è un po' da acquisire, diciamo. Da quanto esistete? Il centro di riuso esiste dal novembre del 2019. Ma il gruppo Rifiuti esiste da diversi anni e ha fatto tantissime iniziative, proprio per far conoscere i rifiuti zero alla popolazione della Val di Sieve. E poi sta cercando anche con le amministrazioni, l'amministrazione di Pontassieve ha approvato una delibera rifiuti zero che stiamo cercando di far implementare, lo stesso ha fatto qualche anno fa il comune di Londra, quindi questo lavoro sul territorio con le persone e con le amministrazioni si fa da tanto tempo, da almeno 5-6 anni. Complimenti, e in quanti siete più o meno? Allora, il gruppo rifiuti siamo, diciamo, il nocciolo duro è una decina di persone, poi intorno al centro di riuso gravitano altre persone che sono interessate dal nostro lavoro, cioè arriva il vecchio elettrotecnico, no? Che dice vi posso dare una mano, oppure il falegname, oppure, per cui poi ci sono tutta una serie di altre persone che gravitano con delle abilità, con delle conoscenze. E invece di persone che si avvicinano? Persone che si avvicinano come consumatori, dici? Sì, sempre di più. Abbiamo un po'. Crescendo, più sì, vi conoscono. Abbiamo bisogno di farci conoscere, cerchiamo sempre di più di utilizzare dei mezzi per arrivare a farci conoscere alle persone. Non siamo bravissimi in questo purtroppo, però via via che riusciamo ad affinare un po' i nostri mezzi. Arrivano più persone. E se qualcuno vi vuole conoscere, incontrare, avere informazioni su di voi, dove allora, vi può trovare? Allora, noi siamo a Londra, in via Roma 59, sotto la farmacia, e siamo aperti il mercoledì mattina dalle 9 alle 12.30 e il sabato pomeriggio dalle 15 alle 18.30. Siamo lì. Tutti invitati per conoscervi, tutti anche invitati. Se dovranno usare un po'. C'è sempre anche tanta simpatia, tanta accoglienza. Vabbè, come dicevi, perché anche un modo per stare insieme e per ricucire anche un po' il tessuto sociale. Anche per questo, anche per questo. Poi vengono anche tante persone che ci dicono di avere dei problemi a lasciare andare le cose, no? Che acquistano cose e si riempiono la casa, per cui vengono lì e ci parlano di questo problema. E quindi poi si crea ci mettiamo lì fuori magari a chiacchierare, anche a suonare, anche. Quindi tutti sono benvenuti e ci piacciono molto anche le storie che le persone ci portano e le mettiamo in comune. Quindi raccogliete anche un po' le storie? Sì. Sì, si fa anche questo e ci interessano, ci piacciono proprio. Bene. Ci entusiasmano. Grazie mille, interessantissimo. Grazie a voi. In bocca al lupo. Grazie, viva il lupo. Viva il lupo, viva il lupo. Evviva, tutti i lupi. E nel frattempo, Camicia, descrivici un po' questa piazza, è sempre una piazza più veramente piena. Viva, sempre più musicisti. Non più così calda dal punto di vista climatico, ma adesso calda dal punto di vista umano, perché sarà una cinquantina le persone a debita distanza, quindi voi che state ascoltando da Pontassieve, voi che siete numerosissime ascoltatrici di Pontassieve, venite qui in piazza, perché c'è proprio un bel concerto dal vivo, il primo post COVID, e quindi un momento bellissimo, arrivano e ci sono anche incontri meravigliosi in diretta. Ciao Camicia, saluta, bacia e abbraccia. E come si chiama questa bellezza? Non mi ricordo più il nome. Ciao Maria, ci sono anche il sorriso più bello sorrisi del mondo. Mamma mia, commosso a vedere tanta bellezza in piazza. E Camicia, allungati a farci sentire un altro pezzettino. Vai. E poi piano piano andremo verso la conclusione. E c'è anche una coppia che balla, una giovanissima fanciulla con un signore in questo valzerino meraviglioso. Fanciulla fanciulla giovanissima, se no di 12 anni, è un piacere guardarla perché vuol dire che le tradizioni anche del ballo vengono portate avanti, non si perderanno. Abbiamo un bel po' di fiati e anche un organetto. E anche da dietro i banchi ballano i nostri produttori. Vendono, chiacchierano, ballano, ascoltano musica. Oh, un applausone, bellissimo, meravigliosa. Io sono quasi commossa ed emozionata, Camicia. Ma ci credo, ma poi secondo me è anche merito del dei bicchierati di quest'ottimo vino bianco che lo sto vedendo, dama, che stai bevendo già da un paio d'ore, insistentemente, ma devo dire piace questo vino bianco. Ci voleva questa giornata così, cominciata un po' mogia per entrambi qui di Wombat, ma risollevata, ma sì. Molto, ci voleva, ci siamo dedicati un po' di amore reciproco per noi stessi e per la nostra giornata. E ricordatevi, i mercati fanno questo, servono proprio anche a far migliorare l'umore. Quando se siete un po' tristi e andate al supermercato, state sicuro che non tornate a casa più felici. Ma se siete un po' tristi e arrivate in un mercato come questo, madonna, tornate ma a casa a parte con la cassetta vita. Di roba buona, però anche con qualcosa in più. Perché dicevo che quello che è molto bello di questo mercato in questo momento è che c'è veramente una varietà di età, da bambini, anziani, adulti, giovani, adolescenti, musica, chiacchiere, confronto, ognuno che porta i propri racconti, ognuno che porta il proprio stato d'animo, condivisione, che è quello che dovrebbe essere un mercato. Invece al supermercato, ma che ci andiamo a fare? No, che ci alzino bandiera bianca ai supermercati, che la alzino. E mandiamo una canzone nostra. Vai. Mister Tamburino, non ho voglia di scherzare. Rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Delle stelle, pronipoti di Sua Maestà il denaro. Per fortuna il mio razzismo non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali. Sintomatico mistero. Com'è difficile restare padre quando i figli crescono e le mamme imbiancano. Quante squallide figure che attraversano il paese, come misera la vita negli abusi di potere. Su tutte spento la bandiera bianca. Beethoven e Sinatra, preferisco l'insalata. A Vivaldi l'uva passa che mi dà più calorie. Com'è difficile restare calmi, indifferenti, mentre tutti intorno fanno rumore. In quest'epoca di pazzi ci mancavano gli idioti dell'orrore. Sentito degli spari in una via del centro, oh, quante stupide galline che si azzuffano per niente. Minima immoralia, minima immoralia. E sommersi soprattutto da immondizie musicali. Sotto che spento la bandiera bianca, sotto che spento la bandiera bianca. Prima di salutarvi vorremmo farvi sentire un altro pezzettino di questa meravigliosa leggera che suona e canta per noi, per il mercato di Pontassieve, per Pontassieve in transizione, per tutte le persone che sono qua oggi. E ovviamente quando noi avviciniamo i microfoni e la musica finisce. Però allora vi racconto questo aneddoto che stavo dicendo al mio buon amico Camicia. Ho scoperto perché la maggior parte degli apicoltori che conoscono sono molto alti, perché da quando mi do l'apicoltura io, che si sa, più di 1,58 m di altezza non vado. La dama, la dama ha tantissimo potere nel castello, ma manca di manco di altezza. Di altezza sia regale che di un certo stile, ma soprattutto di altezza per riuscire ad arrivare a vedere nei miei lari quando già si mette il secondo. Ma a Camicia, avvicinati, che così li allietiamo con questa musica. Salutami e vai, infilati in mezzo al gruppo. E continuano queste meravigliose coppie miste di adulti, bambini di ogni età a ballare spensierati. Devo dire che il sorriso e la spensieratezza regna a Pontassieve. Come si fa a non sentirsi più leggeri ascoltando la leggera? Thank you. Grandi, grandi applausi per quest'ultimo pezzo del Gerard. Cioè, ultimo per noi, perché fra un po' vi saluteremo. Direi che bello. Questo fra un po' è già arrivato. Che dici, Damo? E allora possiamo salutare. Così almeno andiamo a ballare anche noi, esatto, camicia. Sono stati 90 minuti bellissimi qua da Pontassieve, il mercato di Valdisieve in transizione, per questa diretta Wombat al caldo, ma bellissima. E si sentono ancora fischi di ringraziamento nei confronti della Leggera, un grandissimo gruppo di musica popolare e strumentale e di cori. Beh, conosciutissimo, perché ormai ha il suo spazio durante il programma di Radio Contado. Infatti, la Wombat, diciamo, è Wombat sponsorizza la Leggera ormai, questo è risaputo. Cara dama, è stato bellissimo. Grazie Camicia per aver organizzato tutto ciò, per avermi invitato. Anzi, sono un po' autoinvitata, ma va bene. Fatto bene, meno male. Meno male, se no nessun altro mi avrebbe considerato, essere stato qui solo, soletto. Ma io volevo conoscerlo, questo mercato. E beh, buon proseguimento a tutte, state bene, mi raccomando, venite a Pontassieve il giovedì pomeriggio al mercato di Valdisieve in transizione, così come il venerdì al mercato di Piazza Tasso della comunità di resistenza contadina Cerola Rons. Sono tanti mercati ma una sola voce, la esatto. Genuinità umana e agricola delle comunità contadine delle aree fiorentine. Vi aspettiamo sempre. A presto, un bacio a tutti. Viva Wombat. Ascolta le repliche, accedi al nostro blog. Stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene, sarà perché ti amo. Io canto al ritmo del dolce tuo respiro. E primavera sarà perché ti amo. Cade una stella, ma dimmi dove siamo. Che te ne frega, sarà perché ti amo. Si sa, sempre più in alto si va, e vola, vola con me, il mondo è matto perché, e se l'amore non c'è, basta una sola canzone, per far confusione fuori e dentro di te, ma dopo tutto, che cosa c'è di strano, è una canzone, sarà perché ti amo, se cade il mondo. Allora ci spostiamo, se cade il mondo, sarà perché ti amo. Stringimi forte e stammi più vicino, e così bello che non mi sembra vero. Matto per matto, almeno ci spostiamo. Matto per matto, almeno noi ci amiamo. Sempre più in alto si va. Vola, vola con me. Il mondo è matto perché, e se l'amore non c'è, basta una sola canzone.